6 su 10. Allora, sì, Cristian, ti sento in mezzo al QRM, tu mi ascolti? Sì, sì, scusa, dai, però so prima sì, dai. Però sei basso, Cristian, sei Santiago 7, sei proprio in mezzo al QRM, adesso ha tirato i furi, ma non è un granché segnale. Sono stato a Verona, alla rotonda, aspetta un ragazzo, ma è compagnia. Non ho capito dove sei? Alla rotonda, a Platamona. Alla rotonda è Platamona. Che parla, stai andando alla grande, cazzo, dentro la macchina, a Puglia, ma ti stai aiutando allora? E allora complimenti, stai andando bene. Santiago 7 tendente all'8. Tu come mi ascolti, bene o QRM e mezzo? No, non ho capito, il segnale quanto è? Intorno al 7? Sì, va bene, perché hai Platamona, non è proprio ideale la zona mia. Comunque stai andando bene tu, considerando che sei in macchina. Prima cosa, visto che sei lì, informazioni metro, il mare com'è bello? Ah, pensavo che fosse calmo, perché dovrebbe entrare il vento da sud domani, vabbè dai. Comunque ha fatto un sacco di caldo oggi, domani e dopo anche peggio. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di entrare. Attenzione, canale 10, ti vuole entrare. Che avanti? Avanti che vuole entrare su 10? Ora, attenzione 10, riprendi tu Cristian, che riesco a sentirti. Se stai parlando non ti sento, ti sento sotto piano piano, ma c'è il QRM altissimo. Se vai, prova a cambiare radio, se con l'altra radio ti tiro fuori meglio. Avanti. Ciao Giulio, ben sentito. C'è anche Cristian a Platamona, una rotonda, vediamo se c'è ancora. Avanti Cristian. Non lo sento più, poco fa lo sentivo. Era in macchina la rotonda, Santiago 7 quasi 8 arrivava. Di radio non era un granché, però riuscivo a tirarlo fuori. Boh, non l'ho sentito io. E io non l'ho sentito. Vabbè, dai. Se c'è, se ti affaccia. Andate, dai, facciamo un attimo del bianco, chiediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no lo riprendi tu Giulio. Avanti su 10 che vuole entrare, eh? Nulla, vai su Giulio. Ok, vabbè, tutta la sera. Accendo qui e non l'ho sentito nessuno, si vede che nessuno è entrato. Per cui va bene che mi sono anche allontanato, magari in quel frangente può darsi che qualcuno ha chiamato, ma non credo però. È più bassa, è anche il segnale più bassa. Sì, il segnale che c'è in radio è più bassa. Vabbè, quanto siamo da 5 watt. Sì, capire se capisce, quello non è un problema, però è bassa, ma comunque già va bene, per me va bene, no? Non mi interessa la sentita dalla radio forte, può cantare il 9 più 15, adesso si sente 8, 8 e mezzo, sì sì, così, modulati 9, dai, modulati 9. Volevo fare un'altra prova con un'altra radio, mi dici vabbè prova, guarda questo segnale invece 1, 2, 3 prova radio, e cosa è cambiato di radio a lunga distanza? Sì, la radio è molto più forte, questa è anche il segnale più forte di un paio di punti est, è più forte la radio soprattutto. Va bene, quindi dai, sono contento che anche questa funzioni. Sì che funziona bene, altro che io poc'anzi pensavo che tu stavi usando un barattino, perché la radio mi giungeva abbastanza chiara, infatti te l'ho detto, la radio è chiara, bassa ma chiara, invece tu mi stai dicendo che hai spostato di frequenza. No, ma sono d'accordo, perché è molto sensibile il VFO di questo qua. Come ha spostato il microfono, il cavo, che ho cambiato radio, devo averlo toccato appena appena e si è spostato. Mentre nell'altra, in quell'altro tipo, ho regolato la frizione, adesso fa il movimento proprio duro. Sì, ho capito. Beh certo, perché si può alleggerire oppure si può frenare un po' di più il VFO. Già lo so, ma quello non lo tocco mai, io non mi interessa. Quando io ce li ho memorizzati i canali, vado con i canali memorizzati, no? Raramente uso il VFO. Vabbè, ma io lo uso anche per ascoltare in altre bande, in 40 metri, in 80 metri, eccetera, per cui devo girare, e quando giri veloce, piano piano, ci sono delle lamelle sotto, girava a vuoto, a un certo punto mi hanno detto come fare, cosa, l'ho smontato, ne ho tolto la vittina, e gliel'ho piegata appena appena, le alette è ritornato meglio di prima. Sì, ma mi sono stancato di ascoltare, anche perché non ho l'antenna io per ascoltare quella frequenza. Prima, quando avevo la Mantova, già ascoltavo bene, ma adesso mi arrivano quelli più forti, mi arrivano Santiago 7-8 di più, anche ieri c'era un contest che stavano facendo, e ho sentito che stava chiamando, ma non mi sono trattenuto, girato e basta, non mi interessava più di tanto. Se non hai antenna ad ascoltare con la frequenza, con la Game Master non è che puoi ascoltare con le frequenze lì. Ah, perché non riesci a scendere? Che no, la Mantova, non per vantare la Mantova, scende parecchio. Io sino a giù riesco a tirare senza, come si chiama, senza mettere l'accordatore, perché col magnum c'ho l'accordatore inserito, devo togliere diretta, devo metterla. Con l'accordatore perde tutto. Beh, questo. Sì, con la Mantova Turbo io andavo benissimo, sentivo segnali in 40 metri, addirittura 9-9-20 anche. Qualcuno anche più forte, ma con la Game Master no, con la Game Master, a parte il discorso che è più in basso eccetera, ma quello penso che abbia poco importanza, ma è proprio l'antenna che rispetto a quelle frequenze è più sorda. Invece pensavo che fosse valida anche per le bande onde lunghe e onde corte, pensavo andasse meglio per certi versi anche dalla Mantova, ma invece no. Nella 27 Maria è un po' più larga rispetto alla Mantova, negli 11 metri, riesce ad andare un po' di più, così è? Sì, sì, in 11 metri sì, è più larga, certo, questo sì, anzi diciamo che va bene in 10 e anche in 12, accordata naturalmente, però non è come ricezione, c'è una differenza enorme parlando dei 40 metri, perché io mi ricordo quando avevo la Mantova Turbo ascoltavo benissimo segnaloni proprio forti, invece adesso il segnale più forte mi può arrivare Santiago 7, una cosa del genere, in 40 metri, ma quelli più forti quando sono un pochino aiutati anche. Ma dimmi una cosa, tu la stai ascoltando in diretta, senza accordatore, il cavo diretto o l'apparecchio? Sì, cavo diretto, io l'accordatore non ne ho, io ho l'accordatore dentro il contenuto e basta, ma no, ma anche accordando, perché accordare accorda, se voglio mettere 40 metri, accordare accorda, però è sempre un pezzo di filo verticale che non è adatto per quella frequenza o robe. Sì, è costruita per altre cose. No, io l'accordatore ce l'ho, ho l'MT3000 della Magnum, perché c'ha tre commutazioni d'antenne e più c'ha il carico fittizio, eccetera. E per comodità, siccome c'ha attaccati diversi apparecchi, lo metto per quello. Vabbè, se tu hai altre apparecchiature attaccate, vabbè, no, io sono questa. Sì, stavo pensando. ne frega niente. Tanto ci avvicinavano poco dietro, anche ad ascoltare prima ci andavo, ma adesso non ci sono andato quasi più. Vabbè, diciamo c'è anche poco tempo, poca gana, io adesso la sera ho qualche minuto libero in più, ma sono un bel stanco pure la sera in questo periodo, quest'anno come sono lenta che ho quest'anno, però da tempo che non ce l'avevo. Ok, beh certo, adesso sto facendo con 5 watt, anche scarsi, 4 watt questo baratino, 3 watt e mezzo mi sembra che mi danno, 4 watt, non mi ricordo bene. Comunque già mi sento lo stesso, per cui non c'è bisogno di nient'altro. Sì, la buona che ti ascolto giù. Aspetta, questo quant'è? Questo forse ne avrà una ventina, cosa del genere. Vabbè, io sto usando il barattino, infatti non senti, l'alimentatore non lo senti adesso. Sto usando l'alimentatore, quello da 7 ampere, sto usando, per cui... Ascolto, per cos'è il baracchino, quello che usavi solito? Quel famoso Cobra Vintage, Cobra 139 mi sembra, una cosa del genere, è un farlo vecchio, è 139, adesso guardate, 139 già va bene. Oh, ti ascolto perfettamente, la tua voce naturale è perfetto, senta anche lo stacco del PTT, il microfono cos'è invece? Il microfono è del PTT4, però è basso, sta a 3 dovrebbe essere, questo, come il numero non ce ne sono, ci sono le vignette e le hanno aperte di niente, perché quelle è del PTT4, diciamo prima serie forse, che adesso non è come quello di oggi che hanno la cosa. I punti di segnalazione e numerati eccetera con quello cromato, no, il mio è tutto nero, proprio di quelli, è vecchissimo, dai, però è nuovo come microfono. Cacca, mi piace che non te ne sei tenuto neanche uno di quelli in legno, cavolo, che belli che era. Quelli sì. Lo sai che sono riuscito a trovare, dopo tanto tempo sono riuscito a trovare lo schema elettrico. Non è più grave, poi dovrei farmi prima con il legno perché non ce l'ho più, ce l'avevo e l'avevo regalato a un amico di Porto Torres. Ma una domanda, che colore li facevi giù? Colore tipo noce chiaro, noce scuro, ciliegio, che colore li davi? Colore ciliegio li facevo sempre colore ciliegio, perché è un colore che a me piace moltissimo, mentre invece non mi piace il colore noce, troppo scuro, non mi piace. È bello lui perché il colore noce è bello lo stesso, però a me non piace, a me piace il colore un po' più vivo e davo sempre colore ciliegio. Sì, d'accordo con te, meglio chiaro, scuro non è che rende molto, però il tasto lo facevi di un altro colore, un altro tipo di essenza di legno. L'ultimo che avevo fatto l'avevo fatto il colore naturale, il legno naturale, perché il legno era di Douglas, sicché era un legno un po' rosatello, diciamo, dai. E dunque si distingueva moltissimo dal resto della carcassa. Cioè, quindi hai usato due essenze diverse tra il tasto del PTT e rispetto al resto del microfono? No, assolutamente, sempre lo stesso legno, solo che al naturale il legno ha un colore, quando poi io ci davo l'impregnante lo coloravo in color ciliegio, no? Ma tu cosa usavi per colorare? Almeno mio zio quando mi ha fatto la cucina usava queste specie di polveri, poi le metteva e te le faceva a seconda del colore, come la mia cucina era verde, in altre povere era verde, in pino di Svezia, e me l'ha fatta verde, metteva questa specie di polvere e poi la voleva più scura, più chiara, te lo decidevi tu e te lo faceva. Sì, vabbè, quelli ci hanno colorato, no, ma io ho usato il impregnante già colorato, che secondo me è migliore in assoluto, anche se stare a parte da tu, un domani ti capita un qualsiasi cosa, ad esempio che so io, una scorticatura nel legno eccetera, vai e la trovi, il colore lo trovi uguale, identico, senza stare lì a andare col tintometro, a controllare, a fare un casino di cose, invece così è originale e basta. Sì, come comodità, no, ma io siccome avevo chiesto un verde, mi piace piaceva quel colore lì, e lui l'ha preso, ha detto ti va bene, ma aveva fatto le prove, mi ha detto fammela così, se hai messo me l'ha fatta così, come ha detto tu puoi poi a riprodurlo, non è proprio semplice perché devi vedere quanto ne hai messo di quel colorante, eccetera. Poi gli danno una specie di pattina sopra che te lo fa semilucido, che cos'è? Un trasparente opaco? Giù. È trasparente, è satinato, satinato oppure c'è anche opaco, c'è anche lucido, come lo vuole uno, è trasparente e basta. Ma come l'hai fatto tu? Decappato oppure laccata la cucina tua? Come? No, no, proprio l'ho fatta opaca, è un verde, una specie di verde, una specie, un verde opaco, gli sportelli semplici, semplici, proprio a me con il gancetto rotondo, quello in ottone, quello a cerchio per aprire, proprio semplice, sempre, senza nessuno, la cornice quadrata, senza nessun fregio, cose strane, non mi piacciono a me le cose tutte sofisticate, gli sportelli hanno la cornice in giro e il coso per tirare, e con l'anellino in ottone anticazzo. Sì, ma no, non intendevo quello, come colore, cosa l'ha fatta la cucina, come la cassa o decappato? No, non è laccata, no, è dato il coso e poi è dato questa specie di trasparente, non rimane, il colore rimane velato, dai, non è un colore pieno, con tutte le venature, vedi. Appunto, decappato, appunto, allora è quello che intendevo, sì, avanti break. Sì, questo è il buonasera. No, siamo soltanto io e Giulio, c'era poco fa Cristian giù a Coso, a Platamona, alla rotonda, ho provato a richiamare, anzi facciamo una cosa, vediamo se risponde un attimino così, se no puoi riprendere Giulio per i saluti. Attenzione Cristian, ci sei ancora? Niente, vai tu Giuseppe. E come te l'ha fatta, rispondete, come te l'ha fatta, a fuori aperti te l'ha fatta o a fuori chiusi? Cosa vuol dire a fuori aperti? Beh, diciamo che si vede un po' la profondità del polo, dai, delle venature, la vernice si impregna dentro le cose, anziché essere completamente liscia, quello intendo. No, no, si vedono le venature, dici, se si vedono le venature del legno, sì, sì, è tipo una velatura gli ha dato, lui non l'ha fatta colore pieno, come dici tu, la cattura, eccetera, eccetera, proprio tipo, in modo che per vedere le venature del legno, poi le cerniere le ha messe quelle esterne, in ottone, in modo, diciamo, arte povera, come piace a me, semplice, semplice, anziché avere fregi, cornici strane, proprio lo sportello è semplice, semplice, poi nella vetrinetta gli ho messo quel vetro, come si chiama, come lo chiamate voi il vetro, quello quando è lavorato scuro? Strappato, sì, ho capito come è strappato, praticamente non è colore pastello, dai, ho capito, praticamente vedi le venature più chiare, più scure, così, no? Sì, sì, sì, non per vantare, ti posso dire, ha fatto un bel lavoro, io ce l'ho, nel 95 mi sono sposato, l'ha fatta nel 94, perché l'ho pure messa da parte, sempre efficiente, sempre buono il materiale, non dico che sia noce di valore, era in pino di Svizzera, però ti posso dire, è sempre efficiente. Ho capito, dunque si vedono tutti i nodi, eccetera, eccetera, a faccia vista, vabbè. Sì, beh certo, no, va bene. Mi è dispiaciuto quando ho saputo che era morto Vincenzo, peccato, perché era una bravissima persona. Sì, se no per vantare che era mio zio, ma anche era un bravo operaio, dai. Io non è che sia un professionista, tu magari sei molto più moto, nel senso, ne sai molto più di me e puoi dire no, non è buono, si arrangia, quello, un porcaccione. Io per i lavori che ha fatto a me posso dire benissimo, poi l'ha fatto a mio fratello, li ha fatto in un altro tipo di lavoro, però l'ha fatto più lavorato e poi gli ha fatto tutto il salone in Mogano, in stile marinaio, ma ha fatto dei lavori di lì, ma di lusso davvero. Sì, certo, no, non c'è problema, non fare gli anni del vecchio stampo, per cui certo non è il figlio, non per criticare, per carità, ma certo è tutta un'altra cosa. E vabbè, purtroppo se n'è andato, siamo sempre al solito discorso, la vita è crudele. Purtroppo. Avanti Claudio. Sì, questo è Roberto, sì, sto seguendo il vostro discorso, sì, niente, Roberto, puoi dare un controllino mio radio, così collego tutto quanto. Questo era un altro tipo di radio. Se prendo io allora, ciao Claudio, ben ascoltato, sotto salutato poco. Sì, no, già stiamo uscendo bene, solo che sento, non è proprio un fischio, ma un fruscio, chiamiamolo così, dai, forse la ventola, non lo so, però già ti sento bene. Benissimo, il segnale è 9.15, tendente a 9.20, mentre Claudio è 9.20 spaccato, però sinceramente la voce la sento un po' paperina, il livello di modulazione va bene come intensità, se è giusto come valore, se non sei né basso né alto, sento i limiti, però la sento un pochettino paperina. Sì, ma è perché sto usando un SPR, un microfono, che sto usando un numero di diretto con 25 P di questi microfoni, capito? Naturale, non è esente da commenti e da critiche. Parlo quella di Claudio, infatti ho messo i filtri, ho provato a mettere due filtri, doppio filtro sugli toni acuti, è migliorato tantissimo, e sono soltanto abbinamento di microfono, va benissimo Claudio e ti ascolto perfettamente, però conoscendo la tua voce non è naturale, leggermente paperina, ho messo due filtri per cercare di pulirti il segnale, dai, la modulazione, il segnale va più che bene, c'è quasi 9.20 fisso, per cui Giulio, se non avete lasciato con Baracchino, anche tu spingi parecchio, 9.15 tendente a 9.20. Ok, vabbè. Sì, perché ho voluto eliminare il rumore dell'alimentatore. Perché avevo fatto la prova, avevo tolto il coperchio, senza coperchio invece non si sente quasi niente. È quella specie di griglia che c'è sopra la, il coperchio della ventola, dove c'è la ventola, che magari taglia l'aria lì ed è per quello che si sente molto, non beh, con questa alimentatore. Scusa Claudio se interrompo, ma non ti conviene metterlo come ho fatto io, lontanissimo dagli apparati, sotto, con un cavo lungo, bello grosso, così, vabbè, ventole non ne hanno il mio, sono senza ventole, però proprio per eliminare tutti i problemi. Non lo posso mettere lontano, dovrei toglierlo fuori dalla stanza qua, per metterlo lontano dovrei metterlo, andiamo a vedere, nel vano scale, perché io, te l'ho detto, io la stanza ce l'ho più di 20, per cui... Se sono a questa stanza... Sta preparando in due. Allora che posso mettere la camera della figlia? 25 P. Sta preparando in due. 25 P. Avete parlato in due, non si è compreso quasi niente, un po' ho sentito che ha cambiato microfono Claudio, però ci avete più o meno lo stesso segnale con Giulio. Aspetta, facciamo venire avanti Giulio e poi riprendi tu, vai Giulio. Ok, stavo dicendo, se levo questa lontano, lo devo togliere fuori dalla questa stanza, non posso tenerlo fuori da questa stanza, perché allora dovrei metterlo sulle scale, oppure nella camera di mia figlia qui a fianco, oppure me lo devo portare sul mansarda e metterlo una prolungata lunghissima, non va bene. Qui c'è un tavolino, poi tra l'altro il tavolino fa anche un po' di rimbombo, perché lo sai come succede, no? Quando hai trovato un tavolino a ripiani eccetera, la alimentatore è su uno di questi ripiani e fa anche il rimbombo, ed è per quello che si sente molto. Sì, sì, vabbè, non c'è problema, adesso facciamo andare avanti. Claudio, stavo dicendo Claudio, avanti. Peggiorato, molto rimbombante, chiara si capisce, però è tutta rimbombante, un po' sporca, non è naturale, dai, sembra che stai parlando con un megafono, tipo quando c'hai, perché si sente molta amplificazione di tutto quello che c'è intorno, anche il ronzio si sente. Ma dimmi un po', ma tu non c'hai sempre quel sommercam, fammi sentire il sommercam, perché quello è un bel riferimento. Sì, ma adesso mi viene male a passarlo, sono passato un po' un vecchio dentro, che l'ho portato a sempre, perché ce l'avevo a 8, mi sa, sono un 5 o 4, però il sommercam adesso mi viene male a passarlo, perché devo scambiare degli scorpioni, perché quella radio, io praticamente per parlare, commentare, devo togliere le persone che sono cose, devo metterlo al posto dell'altro, di quello della sezione, capito? Troppo forte di sorta. Sei troppo forte e distorto, riprova a abbassare a pelle. Adesso l'ho portato a 5, l'ho portato il microfono, ho messo il microfono e ce l'avete mia a 5, com'è adesso? Adesso va molto molto meglio. Allora era la regolazione, perché da radio in radio cambia, perché sull'altro compa te lo devo mettere a 6 o a 7 massimo, e niente, già, ok, vediamo lo pubblichiamo, la tua, riprendi Giulio. Ok, ok Claudio. Sì, adesso ho rimesso l'alimentatore e quello switching. Adesso appena che vai in temperatura parte la ventola e la sentirai di nuovo, Robe. Ho solo spostato i cavi, perché sono tutti e due uno vicino all'altro. Ho spostato i cavi e l'ho acceso. Tra un po' quando scalda sentirai la ventola sicuramente. Giulio, ma voglio capire una cosa, come mai utilizzando un baracchino che mi ha detto c'è circa 4-5 watt, per cui l'assorbimento sarà, diciamo, esagerando 4 ampere, e la ventola con 4 ampere di assorbimento, allora è piccolo l'alimentatore. Se stacco il baracchino un attimo, dopo un po' scalda lo stesso, scalda per se stesso, capito? Per cui parte la ventola, infatti adesso è partita. Un pochino si sente, comunque è entrato anche Antonio di prepotenza, avanti Antonio. Buonasera a tutti, buonasera. Abbassa le voci. Ecco, ma perché non c'ho le voci basse? No, sei troppo vicino al microfono perché c'è un bel potente. Dai, vai a se va bene così un po'. Se non alzi la voce, sono gracchi, stavi distorcendo. C'ho quel bozziaccio. È una buona idea, 40 metri dal coso, ti metti nell'altra stanza, a parte gli scherzi, è troppo forte Anto, è troppo penetrante. C'è anche Claudio Lamuroso, lo facciamo venire avanti per il saluto, avanti Claudio e poi Giulio per il saluto. Sì, tutto funzionando bene, K. suga. E che marazzo ci vai? Davvero si è proponente, l'avevo toccato, adesso ora va meglio, dai. Sì, no, già, non sta funzionando tutto bene. Adesso mi devo ricordare, io sul corpo ma con la vasellina, a me. Non la via, ma domani la compareggio. La compro e la devo mettere per risolvere tutto. Vabbè, gli ho messo un po' di grasso spray, ma... Ehi, avanti Giulio. Ok, per salutare Antonio e per annunciarvi anche quel recipe perché mi hanno chiamato nel frattempo per la cena, dai, sono le 8 passate. Ci sentiamo domani eventualmente. Ciao Roberto, grazie per la chiacchierativa, ciao Claudio e ciao Antonio. Antonio, tu sempre in ritardo, purtroppo stai lavorando e non ci puoi fare niente. E mi dispiace, vabbè, avremo modo magari di fare chiacchierate più lunghe del solito, quando magari arrivi un po' più presto, oppure di sabato, quando non lavori, o di domenica. Ciao Antonio, riprendi pure, ciao Antonio a tutti, guardati per me, avanti riprendi, ascolto finale e chiudo. Salutone Giulio, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti, Muros! Sì, saluto anche a Giulio, ciao Giulio, alle prossime e Giulio, riprendi Roberto. Ciao Giulio, grazie del questo, raga, ci sentiamo prossimamente. Ciao ciao, buon tutto, anche io sto aspettando che mi chiamano. Però a qualsiasi tutti e due le voci, perché state strillando ed è troppo distorta la voce. Ho notato dal microfono, soprattutto Antonio, troppo forte, sei e distorce Antonio. Ah, vabbè, cosa ci posso fare? Guarda, se capo sono lontano sono, guarda a vedere un po'. È la mia voce che è potente, capito? E allora abbassate appena appena un peluzzino il microfono, o ti allontani dal microfono o se no non devi strillare, se no distorci, proprio distorta la voce. Idem Claudio, poco fa andava bene, adesso o sei avvicinato troppo al microfono o se no anche lui in distorsione. Stamani mi ha chiamato Antonello Fusaro, cosa posso ordinare le antenne? Mi ha detto, io ordino la Ringo, ho detto, qualche cosa, però gli ho detto, di vino a Ghizzo, cioè i problemi che sono stati fatti, vabbè che gli avevo parlato io con quello della LEM, gli avevo detto che davano un difetto, l'altra serie, gli avevo spiegato un po' di cose. Ma perché ti sei cambiato l'antenna? No, negativo, me l'ha chiesto a me cosa potevo ordinare. Ah, per i clienti, dico, per tenerli magari, lo dici. Ehi, speriamo che l'altra Ringo che arrivi sia modificata. Perché sta di nuovo ordinando le cose del CB. Capo. E meglio ancora, così qualcuno se deve comprarsi qualcosa c'è possibilità, perché capo, non c'è più niente. Prima c'era Grassi che teneva le manche, ma non le tiene più. Poi c'era la GBC e non le tiene più. Fusaro qualcosa teneva della LEM e poi anche lui ha mollato. Vabbè, meglio così, dai, perché tanto qualcuno c'è in frequenza. Ho visto l'altro giorno ne sono entrati un paio nuovi, c'è questo Carlo, poi c'è coso Cristian, quell'amico suo, non so come si chiama, poi c'è Mirko. Vabbè, qualcuno in più sta entrando, per cui non dico che si ripopoli la frequenza, ma diciamo almeno se la sera capita qualcuno vuole fare due chiacchiere c'è sempre qualcuno. Dai, di nuovo a te Claudio. Yeah. Maria, riprendo io che mi hanno chiamato. Allora, Grazulli è un'ottima antenna, tenete presente, sono i vecchi progettisti socio di quelli che facevano la Mantova, l'hanno migliorata più o meno come tipologia di antenna, è uguale alla Mantova, però migliorata come costruzione, forse abbastanza, però ho visto proprie comparative, se cerchi Grazulli su internet ci sono le proprie comparative e vi rendete conto, molto interessante, soprattutto anche quella che ha fatto Claudio con la J-Pol, quella è ancora, non so, confrontata con la Grazulli, però è un'ottima antenna. Io adesso appunto potevo andare a mangiare, dai, se dopo c'è qualcuno magari ci risentiamo più tardi. Ciao Antonio, ciao Claudio, grazie del QSO, alle prossime, ciao ciao. Ciao Roberto, saluto, buona serata, quando vuoi entrare, già che siamo qui sempre su Dici, adesso mi dedico più che altro a fare attività radio su questo inverno, ma mi ha fatto piacere, da ti ringrazio Antonio per i saluti, i super saluti e ti auguro di nuovo buona serata, Roberto, quindi Antonio. Ecco, ciao Roberto, ci risentiamo alle prossimine. Sto portando anche la Super M4 radiali, quella è un'antenna robusta. Sì, capo, la situazione dove si trova salire sul tetto, non è un problema. Se avrei dovuto riandare a casa di Babbo, che mi uni in domani o cosa, mi avrei messo un'antenna buona, perché io non avrei potuto stare sempre salendo sul tetto, no? Avrei fatto un lavoro proprio fatto bene. Non so quanto tempo l'ho rotto, sono salito sul tetto, l'ho fatto a ritaccato nero, perché sono di quelle tegole che andiamo a casa, non si trovano, perché io sono una casa antica, un temperatore, queste tegole non si trovano più, capito? Che bisogna fare un terreno nuovo, io l'ho rotto 3 o 4, perché come ho detto un piede ne scendeva giù nella soffitta e si faceva baffetti, e poi alcuni mi chiamano di casa appena con un po' di cemento, e io ho messo anche delle tegole che non sono le sue, guai. Ed è un casino, perché non dobbiamo fare nuovo il tetto, per adesso costa troppo a farlo, capito? Ma si vedrà, perché mi voglio cambiare la posizione, se mi messa l'antenna, la voglio trasferire nel tetto della mia cameretta, capito? Perché sono più sicura, perché voglio messa adesso, se rischio di cadere giù anche, perché è un punto poco agibile, guarda. Oppure comprare una scala di quelle che si sollevano da terra, capito? E fare tutto con quella, perché capito, è un'impresa difficile, guarda. Ce l'avamo tutta la giornata, ne siamo scesi tutti bruciati dal tetto, perché c'era il sole, si staccava le rocce, perché, capito? E il giorno prima non abbiamo potuto salirci, perché stava sempre piovendo, non faceva, c'erano le tegole bagnate, e quando le tegole sono come banane, quello che è, quello di prima. Cappa, dai, io ti devo lasciare, che io adesso devo andare a mangiare. Ci sentiamo. Ok, ciao ciao. E non entrarvi acqua, mettetevi il catrame sopra. Cioè, che forse è meglio. Ok, dai, ci sentiamo, ciao ciao.